24 mattino. 8 e 16 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri sms, e soprattutto ora che parliamo di economia. Soldi e dintorni. Buongiorno Deborah Rosciani. Alessio, buongiorno, ben ritrovato. Eccoci qua, io adesso mi metto ad ascoltare, cercherò di capire se riuscirai a farmi capire qualcosa su questo tema. Dai, del non credito. È difficile stamattina. Alla fine facciamo un test e ti interrogo, mi stai dicendo che posso interrogarti? Sì, io però ti darò il voto sulla capacità che hai avuto di spiegare agli ascoltatori che cosa esattamente oggi. Guarda, mi hai posto il tema veramente bene, perché quello di cui parliamo oggi è proprio un tema attinente alla comunicazione commerciale nel settore finanziario, nel settore del credito al consumo, per cui mi hai proprio, come dire, offerto la palla, te l'ho lanciata bene, me l'hai lanciata proprio, mi ha dato insomma questo assist perfetto. E allora, il tema del credito al consumo, noi ne abbiamo parlato davvero milioni di volte, sia qui a Soldi e Dintorni, nei nostri giornali radio, a Salvadanaio, in Focus Economia. La crisi finanziaria ha posto in primo piano più che mai un tema fondamentale, quello della trasparenza nei confronti dei risparmiatori, dei consumatori letteralmente travolti dalle numerose vicende che hanno sconvolto il sistema finanziario internazionale. Abbiamo anche precisato più volte che per alcuni aspetti il quadro delle famiglie italiane è risultato un po' più protetto dalla crisi, perché da sempre le famiglie italiane sono meno propense ad indebitarsi, ma anche per i criteri di maggiore severità che le banche italiane hanno sempre adottato nella concessione del credito, anche se in questo momento forse questo sta diventando un problema per le piccole aziende, ma questo è un altro tema che magari affronteremo un'altra volta. Oggi perché a Soldi e Dintorni torniamo sul credito al consumo? Perché proprio questa mattina, fra un paio d'ore, a Milano, Assofin, che è l'associazione italiana che riunisce e rappresenta i principali operatori finanziari che operano nel settore del credito al consumo e dei mutui, presenta una nuova iniziativa che si chiama Alla Pari. Di che cosa si tratta? Stamattina ce lo spiega il presidente Valentino Ghelli, presidente di Assofin. Benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno, buongiorno, grazie. Ci faccia subito un esempio, presidente. Allora, in qualità di consumatore, vado in banca a chiedere un prestito, tra pochi giorni che cosa mi devo aspettare dalla società che vorrà o no erogarmelo? Beh, naturalmente ci dobbiamo aspettare una continua crescita della responsabilità da parte degli operatori che offrono il credito alla famiglia, il credito al consumo, come stiamo dicendo adesso, e quindi una maggiore responsabilità, perché lo scenario economico nel quale ci troviamo è particolarmente complesso e difficile, come lei ricordava. E dall'altra parte ci dobbiamo aspettare sempre maggiori informazioni, maggiori trasparenza, quindi comportamenti che vadano a ridurre quelle che nel passato abbiamo definito le asimmetrie informative che spesso ci sono fra chi offre un finanziamento e il cittadino, il consumatore che accede a questo finanziamento. Per cui ecco l'iniziativa Alla Pari, perché proprio voi avete pensato ad un rapporto alla pari fra le due parti, in sostanza. Esattamente, siamo alla radio, quindi purtroppo non vi posso fare vedere il marchietto, ma il marchio riporta proprio un segno di uguale, e questo è lo scopo. Il payoff è noi più responsabili, cioè chi concede il credito lo deve fare in modo sempre più responsabili, voi più consapevoli, cioè i consumatori devono essere sempre più consapevoli. Dove troveremo questo marchio, presidente? Allora, noi iniziamo nei prossimi giorni, lo presentiamo oggi alla stampa, iniziamo nei prossimi giorni con una campagna pubblicitaria, una campagna stampa sui principali quotidiani settimanali, una campagna online sui siti di maggiore traffico, ma soprattutto volevo anche dire che è un'iniziativa che è sì un marchio che caratterizzerà tutte le iniziative che faranno parte di questa campagna, ma è anche un progetto articolato che viene messo in atto da Assofin, e quindi che ha l'adesione delle associate Assofin, che ricordo sono 80 operatori che rappresentano quasi il 90% del mercato italiano del credito al consumo, quindi non la totalità, ma la maggior parte degli operatori si adegueranno a queste nuove norme, e che in concreto si sostanzia in quattro attività molto concrete e molto precise, cioè da un lato la comunicazione pubblicitaria che avrà questo marchio Alla Pari, che ne garantirà marchio e garanzia che non viene data da noi ma viene data da un organismo esterno, poi possiamo anche dire chi è. Certo. Quindi garanzia sulla trasparenza, sulla correttezza della comunicazione pubblicitaria, il primo punto. Diciamolo subito allora magari, Presidente, è l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Allora, è l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria che, come sappiamo, è un istituto che ha acquisito in questi anni una grande notorietà anche in relazione all'attività giudicante posta in essere dal jury dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, IAP per velocità. Quindi tutte le campagne pubblicitarie delle associate Assofin potranno essere sottoposte ad un parere preventivo da parte dello IAP, in particolare del Comitato di Controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che valuterà la conformità delle campagne a criteri di comprensibilità, di correttezza, di trasparenza, che sono non gli standard di Assofin, ma lo standard dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Benissimo. Se non rispettano questi criteri molto rigorosi, evidentemente dovranno essere cambiate. Se li rispettano, potranno fregiarsi del bollino blu, del marchietto alla pari, che è quello che darà questa riconoscibilità per il consumatore, che saprà che è una campagna pubblicitaria garantita nei contenuti e nelle modalità. Allora, questa è la prima area di intervento, la correttezza della comunicazione pubblicitaria. Avete poi previsto anche la revisione del vostro codice deontologico? Assolutamente, perché come dicevo, operiamo sui due fronti: la maggiore consapevolezza e la maggiore informativa per i cittadini e la maggiore responsabilità a cui deve essere soggetto chi eroga il credito. E il concetto di responsabilità comporta anche inevitabilmente un concetto di sanzioni, cioè chi sbaglia paga, chi non rispetta determinati requisiti è soggetto a sanzioni. Quindi, oltre ad avere irrobustito di molto i contenuti del codice deontologico, abbiamo anche previsto un comitato per l'applicazione del codice deontologico che sarà indipendente dagli organi della nostra associazione, quindi sarà composto da professionisti indipendenti e di chiara fama naturalmente, che valuterà i comportamenti delle associate anche a fronte di segnalazioni da parte di consumatori o di associazioni dei consumatori o comunque di terzi, e quindi potranno essere avviati dei procedimenti atti a verificare eventuali violazioni del codice. Nel caso in cui si riscontri evidentemente una violazione, potranno essere, oltre a far cessare questi comportamenti, potranno essere comminate sanzioni che vanno dalla censura a sanzioni pecuniarie. Insomma, complessivamente, Presidente, ci sembra tutta una serie di iniziative che avranno una funzione di deterrente quasi nei confronti delle associate. Quindi comportatevi bene, perché avete voluto mettere in piedi tutta questa struttura? Avete notato che non sono andate, non si sono comportate molto correttamente le vostre associate negli ultimi anni, anche se abbiamo già detto che le famiglie italiane sono indebitate meno di tutte le altre nel mondo? Cioè, qual è... Che ma cosa guardi, vi ha fatto muovere in questa direzione così incisiva, mi sembra? Sì, allora, ci ha fatto muovere semplicemente questo: la consapevolezza che alla fine l'interesse del consumatore coincide con l'interesse della società che eroga il credito. Cioè, come sappiamo, la componente principale del costo del credito al consumo è il costo del rischio, cioè le perdite su crediti a cui si può andare incontro. Allora, un consumatore più consapevole, più informato, che accede al credito con maggiore responsabilità, che evita di fare, poi c'è anche uno specifico strumento che abbiamo messo in piedi. Sì, che tra l'altro non riusciamo a ricordare di nuovo, lo ricordo velocemente, monitorata, perché tra un po' devo dare la linea ad Alessio Maurizi. Sì, ecco, per concludere. Un consumatore che evita di fare il passo più lungo della gamba è in ultima analisi un qualcosa che va a vantaggio del consumatore stesso, ma anche a vantaggio della società finanziaria, perché avere dei consumatori più informati e più consapevoli comporta dall'altra parte avere minore rischi di credito. Perfetto. Presidente, io devo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ricordo rapidamente che cos'è monitorata, che è appunto tra l'altro è un impegno che Assofin stava conducendo già da un anno e che adesso nel quadro di tutta l'iniziativa Alla Pari si rafforza. È lo strumento gratuito online di educazione del consumatore, che è in grado di fornire tutti quegli elementi necessari a riconoscere la propria capacità di credito. Nel corso corso del primo anno di funzionamento vorrei ricordare che gli accessi a questo strumento sono stati oltre 40.000. Grazie a Valentino Ghelli. Alessio, ti ho rubato qualche secondo, lo so. No, non ti preoccupare, anzi, un argomento del genere meritava merita. Io ho capito solo che quando si parla di credito bisogna stare sempre attenti. Sì, adesso insomma avremo questo bollino e se le società non rispetteranno questi standard che il presidente ci ha spiegato, potremo così, insomma, alzare il dito e avere qualcosa in più da cui appigliarci. Le controlleremo tutte, sì. Oggi Salvadanaio? Parlo del certificato di certificazione della certificazione energetica della casa. C'è questo obbligo a partire dal 1 luglio per le compravendite, una situazione che ha già messo un po' sull'allarme un po' di compratori e venditori. Oggi cercheremo di tranquillizzare tutti, speriamo. 8 e 33 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, riprendiamo con le notizie di questa mattina. A Viareggio i morti salgono a 18, nella notte è deceduto infatti uno dei feriti ricoverati a Carrara, sotto accusa intanto la manutenzione del vagone deragliato. Gli Stati Uniti lanciano in Afghanistan il maggior assalto di Marines dopo quello del Vietnam. Sono 4.000 i militari impegnati nella vasta operazione aerotrasportata. In Italia per la politica tiene banco il caso della Corte Costituzionale, c'è polemica tra maggioranza e opposizione sulla cena tra Berlusconi, il guardasigilli e due giudici chiamati a decidere sul lodo Alfano che riguarda, come ricorderete, l'immunità delle alte cariche dello Stato. È in corso dalle prime ore di questa mattina una operazione della Direzione Investigativa Antimafia contro appartenente al clan dei Casalesi, una quindicina le ordinanze di custodia cautelare emesse. L'indagine ha fatto luce su 7 omicidi commessi nel napoletano tra il 1988 e il 1991. E quindi addio a Karl Malden, è morto l'attore che impersonò il burbero poliziotto della nota serie TV sulle strade di San Francisco. 349-238-6666 per i vostri SMS. I titoli dei giornali di oggi: crepe nell'asse del treno da più di un anno, il ministro Matteoli c'era, della ruggine, gli esperti, usura o difetto di fabbricazione. Allora, prima di tutto specifichiamo una cosa, la procura di Lucca sta indagando ma non ci sono ancora indagati, a carico di ignoti questo fascicolo. Questo però è il primo gravissimo incidente ferroviario, forse che chiama in causa anche l'Europa, le regole del trasporto ferroviario, come sappiamo liberalizzato, tutti i convogli che possono circolare liberamente su tutte le reti europee, perché sappiamo che il vagone che è deragliato è di una società straniera, americana, con sedi in Europa, immatricolato credo in Germania, quello che si è riusciti a capire sino ad ora. Più libertà nei trasporti, ma anche più sicurezza, naturalmente, è quello che vogliamo capire. Questa mattina io saluto Antonio Tajani, che è vicepresidente della Commissione europea e commissario ai trasporti. Buongiorno Tajani. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la prima cosa che vorrei porre è questa: a chi spettano questi controlli di manutenzione, visto che parliamo appunto di convogli che hanno una matrice extra italiana, insomma, e quindi europea? Io vorrei intanto cercare di fare un po' di chiarezza sulla vicenda. Noi esistono una serie di normative europee, alcune entrate in vigore, altre che devono ancora entrare in vigore. C'è una direttiva dello scorso anno che stabilisce che un gestore responsabile della manutenzione dei veicoli sia nominato per ogni veicolo ed iscritto in un registro nazionale dei veicoli ferroviari. E quindi la direttiva prevede che nel caso dei vagoni merci l'idoneità e i requisiti del gestore siano controllati dalle agenzie nazionali di sicurezza sulla base di una certificazione che sia valida a livello europeo. Questa direttiva deve entrare in vigore entro il 2010. Al prossimo Consiglio dei Ministri io chiederò a tutti i governi dell'Unione Europea di accelerare i tempi per l'entrata in vigore di questa normativa che è già stata approvata. Le normative in vigore esistono, sono anche abbastanza severe. I controlli devono essere fatti a diverso livello. Il controllo strutturale, cioè quello che si fa diciamo una sorta di radiografia con gli strumenti tecnologici, quindi anche con i raggi X al vagone, deve essere fatta dalla società che gestisce il vagone. Cioè, in questo caso Tajani? In questo caso la società tedesca che aveva avuto in gestione dalla società americana, che è quella, diciamo, che ha investito, che ha acquistato i vagoni, ma ne ha dato la gestione a questa società tedesca, dove è la società tedesca che doveva fare le verifiche generali e strutturali. Ecco, a colui che prende in affitto, sì, il vagone, cioè colui che organizza il treno, in questo caso Trenitalia, ha il dovere soltanto di fare i controlli esterni, vale a dire deve controllare se le ruote girano, se i freni funzionano, se c'è l'olio nei freni, fare quindi un controllo visivo, non un controllo strutturale. Benissimo, chiaro. Allora dunque i controlli, la manutenzione alla società, in questo caso tedesca, Trenitalia doveva semplicemente verificare che il treno potesse in qualche modo circolare, non era questo il punto. Però sulla manutenzione io introduco anche un altro ospite, che è Carlo Vaghi, docente dell'Università Bocconi, ricercatore del CERTET, Centro Economia Regionale Trasporti e Turismo. Buongiorno. Buongiorno. Perché da quello che è emerso ieri, dalle prime informazioni, risulta che c'è questa presenza di ruggine sulla crepa da cui poi sarebbe scaturita la rottura dell'asse che poi ha fatto deragliare il vagone. Indicherebbe, anche secondo le prime rilevazioni, che questa rottura potrebbe datare addietro nel tempo. Professore, quanto tempo secondo lei? Cioè, tra l'altro oggi c'è anche un'intervista di un tecnico di Trenitalia che dice che ci sarebbe stata una saldatura su questa rottura. Quanto indietro questa ruggine potrebbe far pensare che questa crepa, diciamo, derivi? Ma guarda, dipende molto dal vagone, dipende dal materiale rotabile, dalle tempistiche di revisione. Se non ricordo male, le tempistiche per questo tipo di carro sono 6 anni per la revisione. Sto leggendo anch'io le ultime dichiarazioni dell'azienda di Mantova che ha fatto la revisione, che dice che sono stati cambiati 2 carrelli al vagone, che le verifiche sono state blande, eccetera. Però ecco, ha proprio ragione il commissario Tajani. Le responsabilità per i controlli, per le revisioni e per la messa in circolazione ci sono e sono ben specifiche. Aggiungerei, sono così da ben prima della liberalizzazione ferroviaria. Quindi chi oggi grida allo scandalo, chi dice il pericolo viene dall'estero perché con l'apertura delle frontiere si fanno circolare mezzi di ogni genere sulla rete ferroviaria italiana, dice una parziale inesattezza, perché comunque i controlli che avvengono prima dell'immissione sulla rete nazionale sono molto ma molto maggiori di quelli che ad esempio avvengono sulla strada, e comunque carri provenienti dalla Germania, dall'Austria, immatricolati all'estero, sono circolati da sempre sulla rete italiana. Quindi non è una novità, il principio, insomma, del trasporto internazionale. Immaginatevi che un paragone con la strada: quanti camion esteri circolano sulla nostra rete autostradale senza che adesso venga fatto nessun controllo di sicurezza nelle frontiere, come avviene per il treno, né a ogni sua partenza. Addirittura dopo l'entrata in vigore del trattato di Schengen non ci sono controlli neanche doganali alle frontiere, e quindi i mezzi stradali possono circolare, pericolosi o meno, con le gomme lisce, con la ruggine o meno, per tutta la rete. Detto questo, non essendo un ingegnere non posso sapere a quando risalga la ruggine. Sicuramente qualche negligenza c'è stata, qualche negligenza non rilevabile dal controllo formale di efficienza meccanica che deve fare l'operatore ferroviario, cioè Trenitalia, prima della partenza del carro. Ultima cosa, sì, le merci pericolose hanno un regolamento per la loro circolazione su ferrovia che va anche oltre i confini dell'Unione Europea, va dall'Iran al Portogallo, tanto per intenderci, con normative che sono spesso secolari, vengono rinnovate periodicamente. Spesso, ecco, il commissario Tajani saprà che ci sono anche conflitti tra l'Unione Europea, tra Commissione e questi organismi internazionali. 3 anni fa è entrato in vigore una nuova normativa sulla responsabilità nel trasporto ferroviario internazionale c'è stato qualche attrito, c'è ancora qualche attrito con l'Unione Europea per l'implementazione nella legislazione comunitaria. Io saluto anche Alberto Chiovelli, che è direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che poco fa il commissario Tajani tirava in ballo e diceva: beh, insomma, bisogna renderle operative queste agenzie nazionali. Lei in un'intervista che c'è oggi sul giornale dice: allo stato attuale le revisioni ci sono, ma sono un po' scarsine, ma soprattutto manca un sistema di sanzioni chiaro, cioè se qualcuno non ottempera completamente ai suoi doveri, mi sembra di capire da quello che lei dice, non c'è una sanzione, quindi non c'è un disincentivo reale. Ma no, guardi, non, la questione non è in questi termini. La questione delle sanzioni è una questione abbastanza complicata, perché per stabilire delle sanzioni, come sa, c'è bisogno di una norma di legge. Al momento attuale la normativa non le prevede, però se il sistema funziona, se i controlli funzionano, le agenzie nazionali possono comunque emanare, in caso di inosservanza di regolamenti, dei provvedimenti restrittivi. Non necessariamente le sanzioni devono essere pecuniarie, quindi gli strumenti ci sono. Un'altra cosa che le vorrei chiedere, Chiovelli: quanti treni, senza creare allarmismi naturalmente di nessun tipo, ma quanti treni in Italia circolano ogni giorno che sono sottoposti allo stesso tipo di controlli e di immatricolazioni dei convogli che purtroppo e forse anche fatalmente sono deragliati a Viareggio? Adesso il dato numerico non è in nostro possesso, perché ovviamente sono dati che hanno le imprese ferroviarie. Comunque che vi sia una percentuale cospicua di veicoli che sono immatricolati all'estero e che circolano in Italia, come anche di veicoli italiani che circolano in altri stati dell'Unione Europea, questo è vero, ma come diceva il commissario Tajani, la materia è regolamentata. Qui bisogna, io condivido quello che hanno detto i precedenti interlocutori, però vorrei dire una cosa importante. Quando succedono eventi di questo tipo ci sono due riflessioni che si devono fare. Una è una riflessione doverosa per vedere se l'impianto normativo e regolamentare in vigore ha, diciamo così, dei margini di miglioramento. L'altra però è quella di verificare se tutto ciò che le norme prevedono è stato osservato. Ed è quello che bisogna ricostruire passo passo e che stiamo facendo in questi giorni. Naturalmente tocca a voi, tocca alla Procura e a tutti. Matteoli ha annunciato una commissione d'inchiesta. E ben ritrovati, gentili ascoltatori. Al commissario Tajani, Antonio Tajani, commissario ai trasporti, vorrei chiedere questo. Siccome comunque sullo sfondo e forse nell'opinione di molti c'è questo tema delle liberalizzazioni, io sentivo il professor Vaghi, se non ho capito male, a dire addirittura che certi controlli sono addirittura più serrati, sono aumentati da quando c'è la possibilità girare convogli stranieri in altri paesi. Però c'è da parte di Bruxelles una valutazione su quanto la sicurezza sia, per esempio, aumentata o se non diminuita, valutandola attraverso il numero di incidenti, da quando ci sono le liberalizzazioni italiane? Cioè c'è un monitoraggio di questo aspetto, non solo dell'efficienza dei trasporti, che quella immaginiamo sia migliorata con le liberalizzazioni? Dunque, innanzitutto volevo dire che in Italia esiste l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria in attuazione della direttiva europea, quindi io mi riferivo all'applicazione, all'entrata in vigore di un'altra direttiva, non quella che istituisce le agenzie nazionali, perché quella già è in vigore. Ho fatto confusione io. Entrare in vigore la direttiva che riguarda la creazione di un gestore responsabile della manutenzione dei veicoli ferroviari. Perché no, sappiamo che anche sull'agenzia comunque ci sono ancora forse dei decreti attuativi, qualcosa che manca per la piena operatività. Perché l'Europa in materia di sicurezza ferroviaria ha responsabilità soltanto di tipo normativo, mentre per quanto riguarda la sicurezza aerea noi abbiamo una responsabilità anche diretta, perché possiamo stabilire la lista nera, facciamo i controlli. Sulla sicurezza ferroviaria abbiamo soltanto un potere regolamentare e l'agenzia europea coordina, diciamo, le agenzie nazionali, ma non ha potere di intervento. Certamente con le liberalizzazioni, essendo aumentato il numero dei clienti che frequentano le ferrovie, dobbiamo innalzare gli standard di sicurezza, però purtroppo gli incidenti capitano e se ci sono delle responsabilità delle persone queste vanno certamente individuate e i responsabili poi vanno processati e giustamente puniti. Ma bisogna dire che il sistema di trasporto ferroviario è un sistema di trasporto sicuro in rapporto agli altri modi di trasporto. Ogni anno, per esempio, per darvi qualche dato, nell'Unione Europea ci sono meno di 1500 morti negli incidenti ferroviari, di cui il 60% sono persone non autorizzate sulle strade, e quindi sono il 30% sono persone che attraversano i passaggi a livello quando questi sono abbassati. 1500 morti contro i quasi 40.000 che sono stati sulle strade. Cioè, quindi purtroppo i morti, 1500 morti, non vuol dire che sono pochi, sono tantissimi, dobbiamo fare sempre di più, però complessivamente il sistema del trasporto ferroviario è un sistema sicuro. Purtroppo avvengono degli incidenti, noi dobbiamo fare di tutto perché incidenti come quello di Viareggio non accadano mai più, innalzando il livello di sicurezza. Dovremo, attraverso gli strumenti nazionali e tutte le istituzioni, essere più severe, però le norme esistono. Valuteremo anche in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri dei Trasporti se occorrerà intervenire per esempio avere norme più severe, per esempio sulla durata che deve passare tra un controllo e l'altro. Esatto, anche Castelli, quello credo che sia ministro, uno sì. dei nodi sui quali si debba intervenire. Oggi diceva il professore prima, i controlli sono di 6 anni in 6 anni, sarebbe più giusto fare dei controlli e restringere questo limite di tempo ai chilometri percorsi, per esempio. Se n'era parlato in passato, e concludo, purtroppo sì. ci sono state molte resistenze da parte di alcune realtà, società o paesi membri, perché in questo caso sarebbe necessario avere una banca dati talmente complicata che richiederebbe uno sforzo eccezionale. Credo che ne valga la pena, garantire insomma. La sicurezza, questo sforzo certo. debba poter essere fatto. C'è un altro tema, grazie Antonio Tajani, e con questo chiuderei forse questa parte, che invece mi sembra interessante, è quello della velocità, perché qualche giornale ha sollevato questo tema, 90 km all'ora e il macchinista era comunque al di sotto dei limiti previsti, che in quella situazione particolare sono di 100 km all'ora. Chiederei, credo, ad Alberto Chiovelli, in quanto tecnico anche della materia, nonché direttore, ripeto, dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria in Italia. Secondo lei questo tema della velocità potrebbe anche questo rientrare, cioè prevedere dei limiti magari più severi in prossimità di centri abitati per convogli pericolosi come quello di Viareggio? Ma guardi, in linea generale ovviamente la velocità più bassa comporta per qualsiasi evento delle conseguenze potenzialmente minori, questo è un principio di carattere generale. Nel caso di specie è difficile dire se ad una velocità diversa, per la dinamica dell'evento così come è avvenuto e soprattutto per le conseguenze, è difficile dire se ad una velocità diversa ci sarebbero state conseguenze diverse. I limiti di velocità delle linee in relazione alla tipologia dei treni sono fissati su tutta la rete e in effetti non ritengo che questa questione sia rilevante all'evento, insomma. Ci fermiamo qua, io ringrazio Antonio Tajani, il commissario europeo, ringrazio Alberto Chiovelli, direttore dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza Ferroviaria in Italia, e ringrazio anche il professor Carlo Vaghi dell'Università Bocconi di Milano. E vorrei parlare in chiusura di un'altra questione rapidamente, perché oggi al Senato arriverà il via libera definitivo al DDL sicurezza e con il provvedimento votando la fiducia sul terzo articolo al provvedimento già approvato alla Camera. Tra le novità, chi entra in Italia o vi soggiorna clandestinamente commetterà un reato. Altre cose: per avere la cittadinanza si pagherà una tassa di 200 euro, la permanenza nei centri di identificazione e espulsione potrà arrivare fino a 6 mesi, le ronde diventeranno legali. Queste le principali misure del DDL. Io però con Valerio Nida, presidente emerito della Corte Costituzionale, vorrei parlare in questi 4 minuti che ci restano fino alla chiusura del reato di clandestinità. Buongiorno. Buongiorno. Perché lei si è fatto promotore di un, insieme ad altri giuristi, di un appello contro l'introduzione di questo reato di ingresso e soggiorno illegale dei migranti. Io leggo dall'inizio: riteniamo necessario richiamare l'attenzione sulla discussione pubblica sulla norma che punisce a titolo di reato l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, una norma che a nostro avviso, oltre ad esasperare la preoccupante tendenza all'uso simbolico della sanzione penale, criminalizza mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. Proprio questo le vorrei chiedere, quali profili? Ma essenzialmente si tratta di un uso improprio dello strumento penale, appunto come detto nell'appello. Lo strumento penale non si può usare per qualunque scopo, per punire o sanzionare qualunque condotta, deve essere uno strumento usato come ultima ratio, come estrema ratio, per sanzionare condotte che socialmente sono fortemente dannose e che non si possono prevenire e reprimere in altro modo. Ora, l'immigrazione, a parte che si parla di clandestinità, in realtà il reato consiste nella violazione delle leggi sul soggiorno, quindi commetterebbe il reato anche chi, per esempio, lasci scadere il permesso di soggiorno e non chiede tempestivamente il suo rinnovo, oppure non gli viene rinnovato perché nel frattempo ha perduto il lavoro ed è trascorso il tempo consentito e così via. Ora, questo fenomeno della migrazione non è un fenomeno, diciamo, di criminalità, è un fenomeno sociale che va naturalmente governato, ma va governato con altri strumenti, non con lo strumento penale. E inoltre, dal punto di vista della razionalità, una sanzione penale ha senso in quanto, diciamo, sia intimidatoria, cioè la paura, il timore della pena sia una controspinta alla commissione della condotta. Possiamo pensare che un'ammenda da 5-10 mila euro costituisca una controspinta adeguata, significativa, diciamo così, rispetto a fenomeni come quelli dell'ingresso di disperati alla ricerca di un lavoro come quelli di... Lei pensa di no, mi sembra di capire. Proprio di no. Senta, però questo fenomeno, chiamiamolo così, sociale, della clandestinità, ha però dei profili, insomma, di paradosso, perché insomma il cittadino che viene pescato e viene dichiarato clandestino, poi sostanzialmente fino ad oggi in Italia viene lasciato libero di rimanere sul nostro territorio. Questa è una... No, non è così. La legge prevede invece che sia immediatamente espulso. Il problema è che non sempre c'è l'attuazione del provvedimento di espulsione. Non si riesce perché non è identificato o perché lo stato in cui dovrebbe essere espulso non certifica che è un suo cittadino, quindi non c'è un accordo. In questi casi l'espulsione risulta materialmente impossibile e sono molti questi casi, come è noto. Lei che scommessa fa sulla durata di questo provvedimento, perché ci sarà sicuramente qualche giudice, immagino, che possa poi adire alla costituzionalità del provvedimento? Ma non faccio nessuna scommessa, in questa materia veramente fare scommesse... Io penso e mi auguro, diciamo, che anche l'esame dei profili di costituzionalità di questo e di altri aspetti, perché per esempio è già all'esame della Corte Costituzionale l'altra norma già entrata in vigore precedentemente che prevede un aggravante di tutti i reati quando siano commessi da persone in situazioni di irregolarità dal punto di vista del soggiorno, che è una cosa secondo me del tutto irragionevole. Questo è già all'esame della Corte e verrà tra non molto tempo esaminato. E così anche questo aspetto del reato, come altri aspetti, altre piccole tessere di questo mosaico che si va costruendo non per governare il fenomeno dell'immigrazione e per favorire quella legale, ma per combattere sul piano dell'immediatezza, diciamo, e più che altro dell'impressione delle opinioni pubbliche. Ecco, questo mi pare il messaggio, è questo. Si vuol dire facciamo i duri con gli immigrati illegali. 8.57, grazie Valerio Nida, presidente emerito della Corte Costituzionale. Ricordiamo oggi il via libera definitivo al DDL sicurezza con il reato di clandestinità. Noi ci fermiamo qua. Io ringrazio anche Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo La Ruscella in regia, ad Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata. L'appuntamento adesso è con Oscar Giannino.